di sommessi sulla suonaria. Niente che si cercava, niente si mutava. Gli astri confusi dai discorsi più attesi, nemmeno un pensiero alle cose mai viste. Sancho non esiste. Era metà giorno e metà di notte, c'era metà sole e la luna tagliava. Rotolate le strade, i ponti piegati, i treni vuoti e le stazioni affollate. Non serve cercare su nuove piste. Sancho non esiste. Thank you.